passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:36 minuti in questo momento, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, il numero verde per le vostre telefonate 800 24 0024, sms 349 238 6666, lazanzara@radio24.it è l'indirizzo mail. Andiamo subito a sentire i primi titoli dei telegiornali serali TG2. Maroni, svolta sui clandestini, saranno sempre soccorsi e riaccompagnati verso la Libia, paese di provenienza. 227 riportati nella notte a Tripoli, dal 14 maggio via e pattugliamenti congiunti. Colpita alla nuca, muore durante un tentativo di rapina una donna di 82 anni vicino a Catanzaro. Caccia all'assassinio, terzo omicidio di un'anziana nella stessa zona in poche settimane. Slittano i funerali del cardiochirurgo Carlo Marcelletti, morto ieri a Roma, decisa l'autopsia. La procura vuole ricostruire le ultime ore di vita, saranno sentiti medici, amici e familiari. La California devastata dagli incendi, quasi certamente dolosi, case distrutte, migliaia di persone evacuate. Il governatore Schwarzenegger dichiara lo stato di emergenza. A Messina, ex clochard sposa la sua assistente sociale. Per 10 anni lo ha aiutato, abbiamo coronato, dicono, il nostro sogno d'amore. Eccoci qui, siamo in campagna elettorale naturalmente, e allora invoco una telefonata, perché noi non lo possiamo chiamare, perché siamo in regime di par condicio, non lo possiamo fare, c'è questa legge assurda che ci proibisce di chiamare più o meno i candidati alle elezioni europee, alle elezioni provinciali, alle elezioni quelle che ci saranno dal 6 giugno in avanti, e invoco una telefonata da parte di una persona che ci conosce, che è Matteo Salvini, deputato della Lega Nord, nonché candidato alle elezioni europee, ed è per questo che non lo possiamo chiamare noi. Allora ci chiami, caro Matteo, chiamaci. Dico caro Matteo perché ci conosciamo. E allora ci deve spiegare, perché non può essere solo campagna elettorale. Già si comincia a parlare di razzismo, anche se con una sfumatura un po' diversa. Cosa ha detto oggi Salvini? Una volta c'erano i posti riservati alle donne, agli anziani o agli invalidi. Ora il deputato della Lega Matteo Salvini propone le carrozze del metro, in questo caso del metro milanese, per soli milanesi. Dunque, avete capito bene, carrozze del metro per soli milanesi. Lo dice da milanese che prende il tram. Appoggia l'iniziativa anche una candidata al consiglio provinciale, Raffaella Piccinni, che è compagna di partito del deputato leghista. Stesso principio di apartheid, sto leggendo un articolo di Repubblica.it, ma con una sfumatura diversa. Se il deputato distingue tra milanesi e altri, lei invece tra italiani e stranieri. Per la Piccinni sarebbe meglio riservare vagoni solo per extracomunitari, ci sarebbe più sicurezza, assicura. Insomma, voglio capire una cosa. Sono cose serie oppure buttate così elettorali, cose buttate lì per far divertire qualcuno? Studio aperto. Un mare di polemiche, aumentate quest'anno le bandiere blu assegnate alle spiagge italiane più belle, ma scoppia la rivolta di Romagna e Sardegna. È incredibile che qui abbiamo solo 2 riconoscimenti, dice l'assessore al turismo dell'isola, e denuncia. Con quali criteri vengono scelte? Ve lo spieghiamo noi, e non sono così trasparenti. Firenze, un pensionato di 62 anni viene trovato sgozzato in un magazzino. Fermato uno studente americano di 26 anni. Era in mutande vicino al luogo del delitto, sporco di sangue e sotto shock. L'ho ammazzato, ha detto. La notte scorsa era uscito dal suo albergo urlando: mi vogliono uccidere. Un giallo la morte di Carlo Marcelletti, il famoso cardiochirurgo stroncato da un infarto. Il PM dispone l'autopsia per accertarne le cause. Così non va, Veronica, non ci sto più. Quella tua trita polemica non mi va giù. È un dato di fatto che mi ha ridotto ripescaggio per voi, consiglio di un nostro collaboratore, Guido Scotti, che ci ha detto mettetela e noi la mettiamo. Edoardo Bennato, Così non va, Veronica, c'è qualche attinenza naturalmente con le cose di cui stiamo parlando da diversi giorni. E allora vi faccio ascoltare chi pensa che il complotto non ci sia, il complotto delle gazzette di sinistra contro Berlusconi, per, come dire, complotto che avrebbe provocato la reazione di Veronica. Per fortuna non ci crede il ministro Renato Brunetta. Io non sono mai un complottista, penso che quello che accade nel mondo, nella nostra vita, sia in gran parte casuale. Poi il caso viene variamente cucinato, organizzato e così via, quindi io non penso ai complotti, che ci sia una mente che tutti i giorni decida questo o quel complotto. Penso al caso, penso agli eventi, penso agli accadimenti che accadono nella vita di tutti noi, e poi che chi svolge un ruolo piuttosto che un altro usi di questi accadimenti per costruire percorsi di antagonismo politico, antagonismo mediatico, eccetera eccetera. Io me ne andrò in Giamaica, l'8 di agosto. Vabbè, questo Brunetta, che per fortuna non crede ai complotti. Invece Gianluigi Paragone, che è vice direttore di Libero, pensa che tutto quanto sia stato organizzato dal gruppo Repubblica, gruppo al quale si è rivolto una volta Veronica Lario. Sentitelo. Io credo che Berlusconi è come se ci veda un complotto, e credo anche che una qualche ragione ce l'abbia. Ripeto, il ruolo di un gruppo editoriale rispetto ad altri, lo vedremo anche nelle prossime settimane, sarà notevole. Chissà mai che poi, oltre a Repubblica, anche l'Espresso potrà avere delle notizie succulente riservate sull'affare Lario Berlusconi. Vabbè, insomma, il complotto è uscito fuori dalla bocca di Berlusconi, ne ha parlato Carlo Rossella e poi Paragone. Qualcuno è convinto che ci sia dietro un complotto dei giornali per convincere la signora Lario di cose non vere, la candidatura delle Velini, e di qui la richiesta di divorzio. Incredibile, non si possono evocare complotti in questo modo, almeno secondo me. Berlusconi, che parla in francese, ve lo faccio ascoltare perché è comunque una perla, se volete. Intervista a France 2, che poi sostanzialmente è France Télévisions, in cui dice però una cosa che, diciamo, è un po' enorme. Dice: anche le mie televisioni mi fanno campagna contro, sono contro di me. Sentitelo. Un divorce è qualcosa di douloureux, toujours. E je pense que un divorce dovrebbe essere un fait privé, sur lequel personne devrait avoir le droit d'une intervention. La presse et la télévision sont normalement contre ceux qui sont au pouvoir. Et en Italie, au contraire de ce qu'on peut penser à l'étranger, on a contre le 90% de la presse et pratiquement toutes les télévisions, aussi les télévisions que j'ai fondées et qui appartiennent à mon groupe, parce que tous les journalistes veulent démontrer à chaque instant qu'ils sont indépendants. Alors, président Berlusconi, là, vous êtes en train de me dire que même vos télévisions, parfois, disent des choses contre vous. Pas parfois, tous les jours. Beh, insomma, quest'ultima parte è eccezionale. Il francese era chiaramente comprensibile a tutti, credo. Il 90% della stampa è contro di me, ma è un concetto che Berlusconi ha ripetuto più volte. Tutte le televisioni, anche le mie, dicono tutti i giorni delle cose contro di me, perché i giornalisti, anche quelli pagati da me, vogliono dimostrare di essere indipendenti e sono comunque contro il potere. Ora, non è certamente il caso di una trasmissione del mattino, Mattino 5 su Canale 5. Sentite il modo in cui Claudio Brachino, il presentatore, introduce Carlo Rossella. Finalmente nei giornali italiani compaiono anche altre notizie, però siccome la notizia che ha dominato nei giorni scorsi c'è ancora, a noi sembrava giusto non solo e non tanto trarre una conclusione, ma fare una sorta di piccolo viaggio intellettuale e culturale anche negli altri paesi, per vedere qual è il limite fra il pubblico e il privato. Iniziamo però con questo editoriale che ha fatto per noi Carlo Rossella. Come espertissimo giornalista, direttore di giornali e persona che conosce molto bene sia Silvio Berlusconi che Veronica Lario, come vedi questa vicenda? Io credo che questa vicenda nasca da un grande misunderstanding, un grande fraintendimento. Anche Mattino 5? Anche all'interno di Mattino 5 ci sono anti-berlusconiani di ferro? torniamo in onda 18:47 800 24 00 24. Salvatore da Roma, buonasera. Buonasera. Prego. Buonasera, dunque no, io volevo dire alcune cose sul problema di queste leggi sull'immigrazione che mi sembrano pericolose, stanno prendendo una china grave. E essendo io poi parte in causa in quanto figlio di un'Eritrea, mia madre nera come l'Ebano e mio padre siciliano, sì. E io fortunatamente tra virgolette non ho avuto problemi di collocazione nella società italiana, di inserimento, mia madre qualche problemino l'ha avuto. Lei parla di leggi pericolose, perché pericolose? Pericolose perché innanzitutto si sta creando una sorta di, come dire, di clima xenofobo, promosso un po' anche da certe prese di posizione, no? E questo non fa bene perché il nostro paese ha bisogno comunque di... Chi lo sta creando il clima xenofobo? Ma lo sta creando questo governo, una parte di questo governo, con delle proposte di legge. Basti pensare ad esempio alle classi ponte, o alle classi differenziate, che dir si voglia. Che poi in realtà, a parte che si può discutere sul provvedimento, se sia un provvedimento discriminatorio o meno, poi in realtà, come lei sa, sono provvedimenti che non sono stati attuati. Io oggi ho letto un articolo sulla stampa, riassuntivo a cura di Francesco Grignetti, dei provvedimenti che saranno presi. Ancora non c'è un... pare sia stato raggiunto un accordo, vedremo quando verrà posta la fiducia la settimana prossima. Sì. E ho letto molto attentamente alcune di queste norme. A me francamente parlare, a parte la parola razzismo evocata, o leggi razziali evocata ieri da Franceschini, che vabbè, appartiene al mondo della pura fantasia, ma insomma io credo che non... cosa c'è di discriminatorio nel fatto che uno non può, come dire, rivolgersi ad un ufficio pubblico senza un regolare permesso di soggiorno? Non riesco a capire, poi si può discutere giusto o non giusto, ma cosa c'è di discriminatorio in questo? Me lo spiega? Ma di discriminatorio, guardi, le faccio un esempio. Io ho una cugina che è interamente eritrea, cioè ha i genitori entrambi eritrei, nata qui in Italia. Sì. E quindi di cultura italiana, lei non parla l'eritreo, sì. È nata qui, quindi si è formata qui, ha fatto le scuole qui, e nonostante lei adesso stia lavorando e sia anche stipendiata e nonostante paghi le tasse, non gli viene riconosciuta la nazionalità italiana. Ecco, questo trovo che sia gravissimo. Sì, però scusi, la nazionalità italiana, la nazionalità italiana è un altro discorso. Noi stiamo parlando di un'altra cosa. La legge che, su cui il governo metterà la fiducia la settimana prossima, contiene per esempio questo principio: salvo eccezioni, peraltro salvo eccezioni appunto, il permesso di soggiorno deve essere esibito agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, altri provvedimenti di interesse dello straniero. È una norma razzista? Guardi, io non... questa è una parola... cioè è una norma discriminatoria, è una norma... oggi ho sentito delle dichiarazioni di D'Alema, è una norma incivile? Non è una norma discriminatoria, per carità, però non bisogna... Non c'è solo questo, per carità. Per carità, voglio dire, poi usare questa parola, razzismo, è una parola un po' pesante. Cioè, per lei è opportuno che il leader dell'opposizione abbia evocato le leggi razziali, eccetera, eccetera, a pericolo di tornare a 70 anni fa? Guardi, io frequento molto i giovani. Sì. E quello che si recepisce, quello che si sente frequentando le persone, frequentando soprattutto i giovani, sì, è una sorta di paura verso l'immigrato, verso lo straniero. C'è questo clima che è un clima pesante. Questo può darsi, bisogna vedere come si combatte questo clima. Resti con noi, sì. Salvatore, mi fa piacere averla ancora più a lungo in questa trasmissione. Luigi Bacialli, siamo in presenza di uno scoop. Luigi Bacialli, editorialista del Quotidiano Nazionale, scrive anche per Libero. Buonasera. Buonasera. Eccoci qui. Allora, Bacialli ha condotto una sua inchiesta e insomma ha scoperto delle cose molto molto, non solo piccanti, insomma anche clamorose, no? Di che si tratta, Bacialli? Ma è un'inchiesta paradossale, ovviamente. No, certo, questo lo volevo dire alla fine, adesso mai bruciato tutto lo scherzo. Abbiamo rovinato la sorpresa. No, vabbè, è un pezzo intitolato Ma che cavaliere, lui è il tromba. Ma il tromba era un famoso fumetto in cui c'era un protagonista di porno soft italiani, in cui il protagonista assomigliava a Lando Buzzanco, o sbaglio? È verissimo, sì, anni. Ah, ti sei ispirato a vecchie letture, insomma. Beh, diciamo che è un nomignolo che viene affibbiato a tutti quelli che sono particolarmente impegnati sul versante del sesso, dell'erotismo, insomma. Ecco, questo è ormai è una specie di logo, chiamiamolo così, no? Allora io ho scritto che Berlusconi non dovrebbe essere più chiamato cavaliere, ma il tromba, perché evidentemente, stando a quanto si dice in giro, è impegnatissimo, insomma, da quando si alza la mattina a quando va a letto, se va a letto, perché dorme poco, osservo in questo pezzo, non fa altro che intrattenersi con signore giovani, meno giovani, vegliarde, in ogni luogo, perché stando a quanto si dice in giro, insomma, l'uomo sarebbe una specie di erotomane, sempre, costantemente alla ricerca di fanciulle con cui... Certo, da Palazzo Grazioli a Palazzo Chigi, alle residenze in Sardegna, eccetera, eccetera. Sì, abbiamo fatto esempi così, appunto, abbiamo messo un cronista davanti a Palazzo Chigi, abbiamo visto che entrano delle religiose o delle persone vestite da suore, e poi ne esce a un certo punto un signore in clergyman. Allora abbiamo dedotto che le veline entrano travestite da suore, dopodiché, dopo i rapporti hardcore all'interno dei saloni di Palazzo Chigi, Berlusconi ne esce travestito da sacerdote. Quindi certo, perché altrimenti come si farebbe? Perché poi in realtà di prove concrete non c'è nulla. Evidentemente l'uomo deve essere l'uomo deve essere bravissimo a sottrarsi alle telecamere e tutto, no? Ecco, e poi c'è la parte che mi ha divertito, perché ridevo come un cretino mentre scrivevo, no? La parte in cui ho descritto anche tutti gli altri personaggi del gruppo Mediaset che partecipano ai festini. Sì, a queste orge lì a Villa in Sardegna, alla Certosa, con allora c'è Adriano Trentalance Galliani, Federico Confalonieri in Gepierre, insomma, tutta una descrizione di questi balletti a cui partecipava anche Mentana, che siccome voleva uscire dal giro è stato estromesso dalla... Senti Luigi, ma allora, insomma, secondo la tua ricostruzione, cos'è che qual è la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che ha costretto, ha spinto Veronica a mandare quella mail a Lanza? Sì, non c'entra niente Noemi, la diciottenne Casoria, tutta questa roba. Ecco, tutte queste robe qui non c'entra niente, non hanno nulla a che fare con questa vicenda. Veronica si è arrabbiata perché ha ricevuto casualmente un DVD realizzato da Medusa, dove c'era doveva esserci un filmone, invece c'era il nostro eroe, il Presidente del Consiglio, impegnato come al solito in un amplesso dietro le quinte di Porta a Porta, perché anche lì non si contiene, diciamo, no? appena può colpisce, e allora Veronica Lario, Miriam Bartolini, che dir si voglia, non ce l'ha fatta più e via. Non ce l'ha fatta più, avete saputo tutto da Luigi Bacialli, quello che veramente accade, anche se non c'è una prova. C'è moltissima carne al fuoco oggi ancora. La parola razzismo che viene diffusa a piene mani da molti politici, in particolare dal leader del Partito Democratico Franceschini, per alcune frasi pronunciate da un deputato leghista, Matteo Salvini, con una proposta che in realtà non è nemmeno troppo precisa: metropolitana, posti riservati ai milanesi. Sentiremo più avanti, intanto, i titoli del TG3. La Banca Centrale Europea ha tagliato di nuovo il costo del denaro, i tassi di interesse scendono all'1%, mai così bassi in Europa. Dall'accordo Fiat Opel, le ripercussioni sull'occupazione in Europa e in Italia, scrive la stampa tedesca. Scaiola, le fabbriche italiane sono centrali. Respinti in Libia oltre 200 migranti soccorsi ieri nel canale di Sicilia, Maroni risultato storico, l'ONU rispettare il diritto d'asilo. Fini sulla sicurezza, togliere la norma sui medici spia era una questione di civiltà, ma la Lega propone nel metrò posti riservati ai milanesi. Franceschini, nella legge sulla sicurezza è sbagliata, colpisce i più deboli. Dal PD 5 proposte anticrisi per sostenere le famiglie. Minacce dei talebani al Papa, impedisca il proselitismo cristiano in Afghanistan o ci saranno gravi conseguenze. Slittano i funerali del cardiochirurgo Marcelletti, dubbi sulle cause del decesso, la Procura di Roma dispone l'autopsia. Al Quirinale i finalisti del premio David di Donatello, Napolitano dice il cinema può aiutare gli italiani a superare la crisi. Allora, una delle notizie, avete sentito, è il rimpatrio a Tripoli di 227 persone. Nel porto di Tripoli le motovedette con a bordo 227 persone soccorse nel canale di Sicilia. Secondo il ministro è una svolta nella lotta all'immigrazione clandestina, un risultato storico, i migranti erano stati soccorsi in mare. C'è però una polemica perché l'alto commissariato dell'ONU dice siamo preoccupati, è un cambio di politica, mentre Medici Senza Frontiere dice un rimpatrio illegale, contraria anche alla Corte Europea dei Diritti Umani. Dunque, secondo questi organismi così prestigiosi, eccetera, cosa dovrebbe fare l'Italia? Rimpatriare non si può. Fare leggi dure sui clandestini sembra un attentato alla Costituzione e ai diritti civili, non si capisce quale debba essere il comportamento di un governo, qualsiasi governo, di centrosinistra o di centrodestra. Andiamo a sentire i titoli di Sky. Fiat, voci di chiusura per due stabilimenti, Termini Imerese e Pomigliano d'Arco. Appello di Scaiola, non toccate gli impianti italiani, la FIOM minaccia lo scontro. La BCE taglia ancora il costo del denaro, Trichet, i tassi potrebbero scendere ancora. Napolitano sulla crisi, l'Italia chiamata a un grande sforzo collettivo. Rimpatriati in Libia oltre 200 migranti, governo soddisfatto, l'ONU un errore. Sicurezza, Maroni replica alle accuse di Franceschini, un'idiozia parlare di leggi razziali. Domani il Papa in Medio Oriente, massima allerta dopo le minacce talebane. Afghanistan, kamikaze contro l'ISAF, bimba uccisa a Herat, la russa non esclude errori. Uomo ucciso a coltellate in casa a Firenze, fermato un cittadino americano. La musica in rosa si mobilita per l'Abruzzo, Laura Pausini, madrina del concerto a San Siro. Eccoci qui alle 19.22, 800 24 00 24, c'è sempre il nostro Salvatore in diretta da Roma con noi, buonasera. Buonasera. Eccoci qui, le faccio ascoltare allora perché siamo in tema sull'attualità battente come al solito e un'intervista realizzata pochi minuti fa, magari ci chiama, noi siamo un po' più scrupolosi con questa follia della par condicio e magari Salvini ci chiama, comunque Radio Capital lo ha intervistato pochi istanti fa. Parla di leggi razziali e di cittadini milanesi che potrebbero finire in minoranza. Insomma, diamo un senso a questa storia dei posti riservati ai milanesi sulla metropolitana. Molti parlano di razzismo, è una settimana che parlano di leggi razziali, razzismo, fascismo, nazismo e chi più ne ha più ne metta. No, però mi scusi, cioè se uno dice riserviamo i posti solo ai milanesi, non milanesi, quindi o stranieri. Quella è una o... provocazione, ma adesso ci sono i posti sugli autobus riservati ai reduci di guerra, agli invalidi e alle donne incinte. Beh, perché che magari sono minoranze da tutelare. Tra 10 anni i milanesi rischiano di essere una minoranza da tutelare. E vabbè, dice una provocazione, poi parla di milanesi per bene, sentite. Per quanto riguarda i milanesi e gli italiani, chi vive a Milano e prende gli autobus alla metropolitana a Milano sa che alcune linee, la 90-91, la 64, il 12, la linea verde della metro, in alcuni orari e in alcuni frangenti non sono piacevoli da prendere o non vengono proprio prese. E quindi è una provocazione evidentemente, ma non vorremmo che fra un po' ci siano posti riservati alla gente per bene. Poi insomma si passa dai milanesi ai milanesi per bene, qui la cosa si fa un po' più difficile perché evidentemente come si fa a capire quelli per bene o quelli un po' delinquenti, insomma. Poi parla di un'altra cosa, posti riservati alle donne in generale. Allora, la nostra proposta formale che avanziamo al presidente della TM è di valutare la possibilità di riservare dei posti in metropolitana, se non vagoni, alle donne in primis. Italiane o straniere, belle o brutte, anziane o giovani, ci interessa poco, viste le numerose denunce di molestie, di palpeggiamenti, di violenze e quant'altro. E quindi a mali estremi, estremi rimedi. E va bene, poi come li riconosciamo queste persone per bene? Come li riconosciamo la gente tranquilla? Ma gli autisti e i controllori li conoscono benissimo. Li conoscono benissimo. Se ascoltate qualche conducente di tram o di metropolitana o qualcuno che controlla i biglietti, vi sanno perfettamente fare lo screening di chi è la gente per bene e chi è la gente meno per bene che viaggia in metropolitana a Milano. Ecco, ma magari ci sono anche persone non per bene che vestono giacca e cravatta. Fuori dubbio. E come li individuiamo quelli? Indubbiamente, ma ci piazziamo una bella videocamera su ogni vagone della metropolitana, su ogni tram che c'è in circolazione. Uno può anche essere in smoking, se fa lo scemo viene preso e viene portato laddove il codice penale prevede che venga portato. Allora forse dovremmo dire vagoni riservati per gli scemi. Sì, anche potrebbe essere anche una soluzione. Vabbè, insomma, è evidente che questa storia non ha senso ed è una cosa buttata lì. Da Salvini, metro, posti riservati ai milanesi, questo è il titolo per esempio di Repubblica.it che evidentemente punterà molto su questa cosa, sottotitolo Franceschini, ecco i razzisti. Poi avete sentito le parole di Salvini, sono un misto di cose dette, non dette, le donne, le persone per bene, i milanesi, l'invasione degli extracomunitari. Salvatore, la sua impressione qual è? Lei ancora sente puzza, allora, di razzismo? Sente puzza di razzismo? Sono allibito e cementato sentendo queste parole. Tra l'altro è molto comodo dire che siano provocazioni o comunque no, nascondersi dietro questi trucchettini, la provocazione, perché adesso qui sono tutta una serie di cose, le impronte digitali, che chiunque abbia ormai una colorazione tendente al beige, che non sia frutto di lampade abbronzanti o quant'altro, deve essere sottoposto al prelievo delle impronte digitali. E ma poi questo chi lo dice? Mi scusi, questo non è vero. Cioè, beh, no, come non è vero? C'è ma non è vero, nessuno obbliga nessuno a prendere le impronte digitali. No. Anche la mia vuole essere una piccola provocazione, certo, però, perché certo. Le impronte digitali sono state prese, e come se sono state prese nei campi rom. Ci fu una discussione sui bambini, eccetera. Cioè, e poi adesso non entro nella specificità dei provvedimenti, ma sicuramente sono messaggi, volontari o involontari che siano, che vengono veicolati e hanno una tendenza a creare un clima che porta ad avere paura dello straniero. Questo è il problema. D'accordo. Perché questo è quello che si sta creando, quello che sento io e quello che sentono anche persone che sono molto vicine a me. D'accordo, va bene. La ringrazio, quindi, la ringrazio, prego, molto. La ringrazio. Prego. 19:27. Orlando, provincia di Latina. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Dica. Salve, io volevo parlare un po' sull'immigrazione, essendo, mi considero un po' un tecnico, perché sono un ex poliziotto e ci ho combattuto per anni con extracomunitari. Mi dica brevemente qual è la sua impressione su tutto questo cumulo di notizie che abbiamo ricevuto in questi giorni sul decreto sicurezza, adesso sulla questione degli immigrati riportati in Libia, le accuse dell'ONU, l'Italia sta sbagliando. Mi dica la sua impressione. Ma guardi, l'impressione mia è che qua in Italia chi parla di razzismo non ha la minima idea di quello che dice. Primo, perché se così fosse, se addirittura abbiamo tirato fuori le leggi razziali, se così fosse vuol dire che noi in Europa siamo circondati da totalitarismi, perché se vediamo cosa fanno nei confronti degli immigrati Francia, Inghilterra, Spagna, poi il compagno Zapatero non ne parliamo proprio, gli spara direttamente addosso, cioè se noi siamo alle leggi razziali loro non so a che punto stanno. E comunque chi parla delle leggi razziali parla dalla cima del Monte Olimpo, capito? Perché vuol dire che per strada non c'è mai stato, non sa come funziona. Anche la questione dei presidi spia o dei medici spia, sì. Io per quanto riguarda me, sì, che ho vissuto certe cose, sono delle norme sacrosante. Sacrosante, perché poi, cioè, secondo lei il reato di clandestinità è un reato sacrosanto e dunque ci sarà un obbligo, ne discenderà un obbligo per i pubblici ufficiali di denunciare un clandestino, ed è giusto così secondo lei? Ma l'obbligo non deve essere solo, il codice penale parla dell'obbligo della segnalazione di reato per qualsiasi cittadino. Se lei viene a conoscenza di un reato e non lo denuncia, dunque, se lei sa che una persona è clandestina, dovrebbe, se un cittadino sa che uno è clandestino, dovrebbe andare alla polizia a denunciarlo, è così? È chiaro. La ringrazio Orlando. Prima di tornare con gli ascoltatori, ancora qualche estratto dall'intervento di Berlusconi, intervista di Berlusconi a France Television, a France Day, in cui ha detto un'enormità, il fatto cioè che le sue televisioni non fanno che attaccarlo, anche le sue televisioni, l'abbiamo già ascoltato. Poi in un altro passaggio Berlusconi parla della classe con cui avrebbe affrontato la questione del divorzio. Sentite. Votre divorce, vous pensez que ça peut avoir une influence sur votre popularité? Non, j'ai les derniers sondages, au contraire de ce qu'on peut penser, il y a eu encore une augmentation pour comme j'ai affronté avec certaines classes, disons, ce fait, l'admiration des Italiennes, c'est important, sont 3 Italiens sur 4. 75% di popolarità e d'admirazione, pas mal. Avete sentito sulla popolarità che ancora Berlusconi avrebbe, secondo lui naturalmente, quello che ha detto la televisione francese, ancora Berlusconi che parla a proposito della vicenda, anzi no, ritorna su Obama abbronzato, su quella battuta e la rivendica, sentite. E anche abbronzato. Est-ce que cette phrase, par exemple, vous la regrettez? Non, absolument, parce que c'était un compliment. Moi, je voudrais être bronzé et avoir le temps de m'exposer au soleil. C'était vraiment quelque chose que je dis et que lui a bien compris. Il a compris comme oui, ça? Oui, absolument. Dans la politique, c'est le même que dans la vie normale. Comme j'étais ami de tous mes collaborateurs, j'étais ami de tous mes clients, et je suis ami de tous les gens qui ont les mêmes responsabilités dans les différents pays que j'ai dans mon pays. Avete sentito come ha rivendicato quella battuta certamente infelice su Obama abbronzato, dicendo anche lui l'ha capita, anche io vorrei essere in alcuni momenti più abbronzato, vorrei prendere più sole. Va bene, il solito Berlusconi, 800 24 00 24, vi faccio ascoltare prima di andare agli ascoltatori un'altra cosa che può essere oggetto di discussione e di interventi, perché Brunetta a un certo punto, dopo l'intervento del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana Avvenire, che pretenderebbe da Berlusconi un po' più di sobrietà nella condotta della vita pubblica e politica, dice, beh, insomma, da quale pulpito, dice Brunetta, insiste Massimo Giannini, che è vice direttore di Repubblica e conduce le trasmissioni su Repubblica TV, e dice, ma insomma, cosa intende? Beh, e poi Brunetta spiega, loro che hanno avuto tutte quelle storie di pedofilia, insomma, la Chiesa non può parlare, secondo Brunetta, perché dovrebbe guardare in casa propria le storie di pedofilia e dunque non può pretendere sobrietà da Berlusconi. Sentite. È anche vero che persino il quotidiano della CEI, l'Avvenire, ha invitato il Presidente del Consiglio ad un atteggiamento un po' più sobrio, diciamo, dal punto di vista dei costumi. Posso dire una prego, battuta? Qui per questo. Da quale pulpito? Addirittura. Vabbè, i vescovi non è che si possano criticare per questo motivo, no? Il giornale dei vescovi non vuole aggiungere altro. Da quale pulpito? No, pensiamo a quello che è successo in America, sai, e a come il quotidiano dei vescovi ha trattato quello che è successo in America. Ma lei allude alle vicende di pedofilia che hanno sì. visto coinvolto tanta parte di clero americano. Sì. Certo. Dunque, per quelle vicende il Vaticano non può permettersi di invocare sobrietà dal Presidente del Consiglio. È una parte dell'intervista di Brunetta di oggi che ancora non è stata particolarmente pubblicizzata, secondo me, perché è un'accusa molto grave. Cioè, il Vaticano non si può permettere di fare lezioni morali al Presidente del Consiglio, a Berlusconi, perché ha avuto tutte le storie di scandali sessuali, eccetera, eccetera. 800 24 00 24, da Sky TG24, credo l'ho vista solamente dallo schermo di Sky TG24, rimbalza una notizia, forse diffusa da qualche agenzia, per adesso non dall'ANSA, né da PICOM, né da altre agenzie. Stampa brasiliana, ve la leggo così come viene recitata dall'ultima ora. Stampa brasiliana, 2: asilo politico per Battisti. Una decisione dunque che sarebbe stata presa dal Tribunale Supremo, secondo la stampa brasiliana, asilo politico per Battisti. Michelangelo da Roma, buonasera. Buonasera, io dica. Volevo intervenire su 2 stupidaggini colossali che sono state dette secondo me in questi giorni. Una, che i posti riservati ai milanesi, sì. È come dire, per esempio, che in farmacia possono entrare solo quelli che hanno a che fare con la medicina. e poi le multe a quelli che scaricano da internet. Io non nego che rientro nel caso di quelli che scaricano da internet, però che faccio? Mi vado a comprare un CD con 20 canzoni dentro che costa 20 euro, che ce ne stanno solo 5 che mi piacciono. Vabbè, potrebbe comprare anche solo le 5 legalmente senza scaricarle, diciamo, gliela potrei mettere in questo modo. Non è un grande argomento per, come dire, per rivendicare la libertà di scaricare da internet canzoni e film e altro ancora, cioè l'argomento del gusto, e dunque non le consiglio di continuare su questa strada. Per quello che riguarda i milanesi, anche qui mi sembra che il paragone con le farmacie e la medicina non sia appropriato. Certo, riservare i posti sulla metropolitana ai milanesi, posto che Salvini abbia fatto questa proposta, in realtà non l'ha fatta, perché abbiamo sentito, e forse sentiremo dopo se ci chiama, che è tutt'altro ed è una proposta ancora più confusa, è una stupidaggine anche questa. La ringrazio. Massimo, provincia di Milano. Sì, pronto? Eccoci. Io volevo dire che secondo me, al di là poi dell'uso che se ne può fare delle parole, effettivamente il decreto sicurezza contiene gli aspetti discriminatori, dal mio punto di vista palesi, cioè il trasformare la condizione di clandestinità in un reato che a sua volta poi nega dei diritti fondamentali, perché io capisco che Fini abbia fatto la sua battaglia personale per quei pezzetti di legge. Però la sostanza vera è che effettivamente la Lega è a casa, è che un pubblico ufficiale dovrebbe denunciare un clandestino. Quindi negare per esempio l'accesso a un ospedale, al diritto alla salute a una persona in quanto clandestino è dal mio punto di vista una negazione di un diritto fondamentale. Sì, questo non avverrà, però è stato specificato non avverrà. Perché non avverrà? Mi scusi. Il fatto che la persona venga comunque curata, voglio sperare, no? Ma che debba avere poi la paura di subire delle conseguenze, questo di per sé è una limitazione dell'accesso. Poi c'è una norma. Leggo sì. Oggi dalla stampa: chiarito che i medici non dovranno più denunciare un paziente clandestino, sarà specificato questo, e che tale esenzione si estende anche ai presidi a salvaguardia dei diritti all'istruzione dei bambini. Resta il fatto che nell'ordinamento si introduce il principio che diventa indispensabile il permesso di soggiorno per avere rapporti con la pubblica amministrazione. Insomma, questa storia qua dei presidi e dei medici è stata già sviscerata, dibattuta e chiarita. Io credo. L'iscrizione all'anagrafe dei bambini figli di immigrati non regolari o comunque clandestini. Sì. Ecco, l'idea, cioè, la non iscrizione è la cifra della caratteristica di questo. Cioè le colpe dei padri, se colpe si possono chiamare, ricadono sui figli. In più si crea una condizione che è vietata dalle convenzioni firmate anche dall'Italia sui diritti del fanciullo, sui diritti umani, perché ognuno ha diritto a essere registrato e avere un nome, ma crea anche una condizione per esempio per i minori gravissima, perché avremo dei bambini di cui non si sa nulla, che potranno essere rivenduti, che potranno essere usati in parti di ordine. Lei la drammatizza, io capisco che lei la possa drammatizzare. Le leggo un altro capitolo di questo articolo dedicato perché ancora tutto non è chiaro finché non avremo la normativa davanti ai nostri occhi spiegata anche bene. E questo, la parte di questo articolo si intitola Fantasmi anche i bambini, della cosa di cui sta parlando lei. È un punto assai controverso. Secondo l'interpretazione dei responsabili politici del Ministero dell'Interno, i neonati possono e devono essere iscritti all'anagrafe comunale anche se i genitori sono clandestini. Per incentivare le gestanti ad affidarsi agli ospedali pubblici c'è un apposito articolo della legge sull'immigrazione, la Bossi-Fini, rimasto in vigore, che concede un permesso straordinario di soggiorno di 6 mesi alle neomamme. Meno tranquillizzante l'interpretazione delle opposizioni e dell'onorevole Alessandra Mussolini, PDL. Cioè, insomma, su questa storia dell'anagrafe, dell'iscrizione all'anagrafe da parte di bambini, anche se i genitori sono clandestini, credo sia stata fatta chiarezza, anche se poi ci sarà da precisare qualcosa. Per cui, adesso non drammatizziamo prima della... poi sa, le leggi in Italia, più leggi si fanno e più le cose si ingarbugliano, questo è il sì, però questa è l'esperienza. Diciamo così, a furia di mangiarsi ogni un pezzettino, oggi introducono questa pezzo, l'anno prossimo ne introducono un altro. A me sembra che l'intento discriminatorio sia nei fatti. Poi Io credo che da qualche parte, per combattere l'immigrazione clandestina, che è stato anche uno dei cavalli di battaglia della campagna elettorale di Veltroni, perché Veltroni diceva sempre che bisogna combattere molto duramente la clandestinità e poi avere il massimo dell'accoglienza con le persone che vogliono venire a lavorare, eccetera. Per cui bisogna tradurla in pratica poi questa durezza che bisogna avere nei confronti della clandestinità. O lei pensa di no? sembra una... Allora, noi abbiamo un problema fondamentale, anche i richiedenti asilo. Se noi avessimo un sistema efficiente dal punto giudiziario, dal punto di vista dell'efficienza del diritto di avere un giudizio in breve termine, sì, le persone vengono accolte, vengono giudicate se sono più o meno, come dire, hanno il diritto di essere accolti in quanto rifugiati politici, e su questo si può lavorare. Vabbè, ma sulla non si può fare, allora si respingono tutti. No, ma lei ha ragione sul fatto che poi la procedura di accoglienza nei confronti di persone che non vengono a delinquere, di persone che hanno diritto in quanto perseguitati eccetera eccetera, sono troppo lente, anche il rinnovo dei permessi di soggiorno. Da questo punto di vista bisogna dirlo chiaramente, lo Stato deve assolutamente adeguarsi alla velocità con cui si devono rilasciare alcuni documenti e si devono sveltire le pratiche. La ringrazio molto, Massimo, di questo intervento. 800 24 00 24. Beh, insomma, è un piacere avere tra di noi Lando Buzzanca. Buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora, perché Giuseppe, qua è un problema gravissimo questo, perché preferirei parlare di sasso e potere piuttosto che di sesso e potere. Almeno col sasso hai il potere di mandare qualcuno all'ospedale. Di sasso e potere, sì, di sasso e potere. Senti, io ti ho chiamato perché? Il problema è questo. Per tanti anni Lando Buzzanca è stato identificato, fotografato e, sì, sì. Nella sua carriera di attore, come lo stereotipo internazionale quasi dell'italiano provinciale, virile, certo. E poi non troppo virile in realtà. Più che provinciale, dell'italiano che sussisteva e che viveva nel mondo in cui la donna si trovava e si cercava e si trovava continuamente, si emancipava continuamente, e lui rimaneva lì a facciata alla finestra, sempre pensando in maniera diversa, senza emanciparsi. Sì, un po' fissato, un po' fissato col sesso sempre, no? Sì, infatti guarda, a proposito, parlando seriamente, sì, secondo me il potere, sì, stimola il sesso. Addirittura. Il potere è maschile, non è femminile. L'uomo lotta per il potere, probabilmente perché lo rende più visibile alla femmina. Quindi più pratico al sesso, più propenso, diciamo. La donna si accorge dell'uomo perché gli riscontra un potere. Tra l'altro questo è certamente vero, c'è un titolo di un film che ha come protagonista Lando Buzzanca negli anni 70 che è quasi anticipatore rispetto a quello che sta avvenendo in questi giorni, in queste settimane. Nonostante le apparenze e purché la nazione non lo sappia, all'onorevole piacciono le donne. Che succedeva in quel film, Buzzanca? Succedeva che lui che pensava al potere, che appunto pensava al potere in maniera proprio esponenziale e viveva soltanto di potere, si accorgeva appunto che era stimolato in una maniera imprevedibile, era stimolato dal sesso. La donna pensa al sesso in maniera più romantica, più dolce. La donna può essere cattiva, la donna può essere una strega, diciamo, può essere una carognona, ma non sarà mai, appunto, parlando di politica, sì, parlando appunto di questo personaggio, la donna non sarà mai un tiranno, come può essere appunto un uomo che diventa tiranno per eccesso di potere, giusto? Ma mi hai dato la pista giusta per rispondere. Senti un attimo, con che occhi stai osservando quello che accade in queste ore intorno a Berlusconi e alla vicenda del divorzio con la moglie? Mi dispiace per Berlusconi, guarda, poveraccio, perché non meritava un atteggiamento così sinistro. Da parte di chi? Da parte della moglie. Ah, tu stai dalla parte di Berlusconi? Sì. Stai dalla parte di Berlusconi? No, Berlusconi è quello che è, così, e a me piace perché è così, è spontaneo, è vero. Non è, sarebbe un altro, perché deve fingere di essere un altro? Perché ha un potere. E dunque, in cosa ha sbagliato Veronica? Veronica, che cosa ha sbagliato? Cioè, a fare quei comunicati all'ANSA, a mettere... Certo, ha proprio mostrato il fianco, sì, alla sinistra, che non, la sinistra non ce l'ha con Berlusconi politico, ce l'ha con l'uomo, perché ha un potere incredibile, un potere di manager. È un manager che ha un grande potere e si comporta da uomo, non da politico, e questo dà fastidio. Io preferisco un presidente del Consiglio, un presidente della Repubblica, sincero, vero, autoritario, ma vero, sincero, che va in mezzo alla gente, che si fa fotografare coi cuochi. Vabbè, adesso lei sta tirando fuori le sue... Scusa, fammi finire. Sì, sì. Io nel mio piccolo, quando vado in un ristorante, ad andare in cucina, io sono felice di abbracciare i cuochi, le cuoche, che sono sempre... Non sono mai delle bellissime ragazze. Dunque, qualcuno dice a Berlusconi: no, non devi andare in quelle feste, non ti devi far fotografare. Ma non è vero, ma perché? Non è più, non sarebbe più lui. Io amo Berlusconi per quello che è. Ah, lo ami allora, lo ami Berlusconi, sei un fan di Berlusconi alla fine. No, non è che lo amo nel senso che non gli rimprovero nemmeno quando fai il ragazzino che gioca. Un ascoltatore, vediamo le cose buone che sta facendo, non quello che è. Vabbè, quello lo giudicheranno gli elettori. Un ascoltatore mi scrive: sappiamo tutti da che parte politica sta Buzzanca. Certo, lo so, sono un uomo di destra, ma sono un socialista di destra. Non sono un politico di destra. Non faccio politica. Io faccio l'attore. Allora a questo spettatore deve dire, questo signore che ha detto questo, da che parte sta, deve dire che io nei teatri delle regioni di sinistra non entro e non faccio il politico, faccio l'attore e non mi fanno entrare. Senta, non mi fanno entrare perché faccio opinione. Ma senta, che vuol dire? Io vado a vedere gli attori di sinistra, gli attori comunisti, i cantanti comunisti, li apprezzo, li amo. Senta, ma Veltroni per me è un grande uomo che si è lasciato trascinare da certe cose, è un grandissimo uomo, e mi dispiace per Walter, che è veramente un grande uomo, è un vero uomo politico onesto. Senta, Buzzanca, un'ultima cosa le chiedo, è questa. Insomma, secondo lei una donna magari calpestata nella sua dignità, che non se ne, come Veronica Lario, qualcuno l'ha descritta così, secondo lei non doveva uscirsene pubblicamente con uno scritto all'Ansa dicendo quelle cose lì? No, doveva stare... È una moglie, deve proteggere il marito, è una moglie, lo conosce già da tanto tempo. Lei si è trovato una fortuna quando ha conosciuto Berlusconi. Vabbè, solo per questo deve difenderlo, sempre e comunque. No, solo per questo, ma perché ha avuto i figli, c'ha l'amore, un sentimento. Per te, perché è per quello che sta facendo come presidente del Consiglio. Ho capito. Quello che sta facendo è per l'umanità che dimostra. Ho capito, Buzzanca. A farsi vedere, ad abbracciare gente. Ho capito, in quanto moglie, non doveva fare. Sì, quanto moglie, però è una che ha detto queste sciacquette di. Ha parlato di sciarpame politico, sì. L'ipotesi della candidatura di alcune veline o presunte. Ma si è espressa in una maniera. Se fosse stata una velina l'avrei denunciata di aver fatto. Ho capito. È assurdo, perché? Che vuol dire? Allora se lo chiama, la acchiappa per i capelli, per quelli che ha trapiantati. Lo acchiappa per i capelli trapiantati, non i comunicati all'Ansa. Rompe la testa, lo manda all'ospedale, ma non così. Va bene, grazie a Lando Buzzanca, grazie, buona serata. 19:53, concetti molto chiari da parte di Lando Buzzanca. Non doveva comportarsi così Veronica Lario. Dove andiamo? Riccardo da Andria, la Puglia. Buonasera Riccardo. Le chiavi le ho messe là. Buonasera. Eccoci qua. Salve. Allora, intanto, nonostante l'età, condivido pienamente quello che ha detto Lando Buzzanca. Addirittura. Proprio, nonostante l'età, perché sono molto più giovane. Comunque, non si può dire che doveva stare zitta e mosca e non può esprimersi pubblicamente, mi scusi. No, per via del fatto che sta con i cuochi, tra la gente. Quella storia dello snobismo, dice lei. Deve essere così, lui è amato proprio per quel fatto lì. Ho capito. su quello non ci piove, anzi da noi lo amiamo per quel fatto lì, proprio perché è una stasera persona, tutte persone che amano Berlusconi abbiamo, benissimo. Sì, sì, sì. Vabbè. Allora, intanto, a livello delle parole di Franceschini, a livello di razzismo, diciamo che non se ne dovrebbe neanche parlare, perché è talmente una cavolata che ha detto, perché parlare di leggi razziali significa che lui non le ha vissute, perché io ho parlato con mia nonna e ha detto che sono ben altro le leggi razziali. Quindi, sì, sua nonna, gli ha detto che sono altre cose e lei... Non esiste proprio. No, certo. Non esiste proprio quel discorso. Cioè, purtroppo a livello politico si sa buttare il fango in, diciamo, addosso all'avversario politico. Ho capito. Vabbè, questo l'abbiamo già l'abbiamo già detto ieri. Secondo lei Franceschini fa propaganda, è sbagliato parlare di leggi razziali. Propaganda, solo che ancora d'accordo. Devono capire che sbagliano a far propaganda in quel modo, perché Berlusconi esce, aggrediscono e più prende voti. Così sembra. Aumenta la popolarità. Una moglie deve sempre difendere il marito. Avete invitato Buzzanca a dire queste cose, altri dicono grande Buzzanca, altri ancora ridicolo. Ci sono però anche considerazioni un po' più consistenti, ecco. Sentendo Lando capisco perché Berlusconi piace agli italiani. Buzzanca ha la stessa classe di Berlusconi, dice un altro. Eccetera eccetera. Abbiamo qualche titolo di telegiornale? Ancora no. Sono in collegamento con noi Luigi da Foggia, Marco da Torino, Massimo da Milano. Direi di andare con Massimo da Milano, poi appena arrivano i telegiornali rimanderemo in onda i titoli dei TG di questa sera. Massimo, prego. Sì, pronto, buonasera. Buonasera. Sergio Cruciani. Niente, una piccola considerazione riguardante la questione dei preti di spia. Sì, un attimo solo, TG1 poi torno da lei, TG1. Rimpatriati in Libia, i migranti soccorsi nel canale di Sicilia, preoccupazione dell'ONU, Maroni, un risultato storico. Polemiche su immigrazione e sicurezza, Franceschini aiutare le famiglie, dal governo solo annunci, Bonaiuti, la sinistra fa chiacchiere. La Banca Centrale Europea taglia i tassi all'1%, minimo storico dal 99, Trichet, ripresa graduale dal prossimo anno. Marcelletti, richiesta l'autopsia, sospesi i funerali del cardiochirurgo, era depresso, si indaga sulla morte. A Milano è tornato al lavoro il gioielliere che reagì a una rapina ferendo un bandito, è indagato e dice: mi sono solo difeso. Cinema da cani, sempre più richiesti, addestrati gli attori a quattro zampe, protagonisti di film e TV. Va bene, la 7, sentiamo i titoli. No comment dall'ingotto dopo le voci secondo cui l'accordo Fiat-Opel prevederebbe la chiusura di due stabilimenti in Italia. Preoccupazione tra i lavoratori. Marchionne domani di nuovo in Germania. Al minimo storico il costo del denaro in Europa. La BCE abbassa il tasso all'1%. 227 migranti intercettati ieri nel canale di Sicilia dalle motovedette italiane riportati direttamente in Libia. Critiche dall'Alto Commissariato per i Rifugiati dell'ONU, mentre il ministro Maroni esulta e conferma: respingeremo le navi di clandestini. Alta attenzione Medio Oriente alla vigilia del viaggio del Papa. Dall'Afghanistan le minacce dei talebani. Benedetto XVI impedisca il proselitismo dei crociati. In Afghanistan non ci saranno gravi conseguenze. Sfide decisive per conquistare la finale di Coppa UEFA. Tra poco sulla 7 il derby tedesco tra Hamburgo e Werder Brema. Osservato speciale il brasiliano Diego che il prossimo anno giocherà con la Juventus. Bene, bene, 800240024, eravamo con Massimo da Milano. Prego Massimo. Sì, niente. Allora, niente, la questione andrebbe probabilmente affrontata dal punto di vista più amministrativo che non legale o comunque penale, gravando comunque i presidi di questo tipo di responsabilità. Cioè, l'esempio è, se io dovessi inviare mio figlio a scuola, devo portare una serie di documenti, dal certificato medico, dichiarazione dei redditi, eccetera, eccetera. Com'è che una persona comunque non in regola può iscrivere comunque suo figlio? Capisco la dichiarazione dei diritti del fanciullo, eccetera. Però a questo punto anch'io posso portare mio figlio a scuola senza documentazione, o no? Sì, guardi Massimo, i casi in cui uno può portare un figlio a scuola senza avere documentazione sono molto rari, io credo, no? Cioè, non è che uno è clandestino, certamente ci sono delle condizioni di clandestinità diverse dalle condizioni di clandestinità totale, no? Ci sono magari dei processi lunghi per il rinnovo di permessi di soggiorno. Insomma, la condizione di clandestinità è diversa, non è sempre uguale. E io credo che sia giusto che una persona che sia nelle more del rinnovo di un permesso di soggiorno che possa iscrivere i bambini a scuola. Su questo anche lei credo che... Sicuramente, certo, certamente, ci mancherebbe. Va bene. No, il punto è questo. Lei ha ragione quando dice non c'è niente di male a mettere per iscritto in un provvedimento di legge che i rapporti tra gli stranieri e la pubblica amministrazione siano sempre regolati da un criterio di trasparenza o comunque dalla presentazione di un documento che è il permesso di soggiorno. Io sono d'accordo assolutamente con lei. Poi naturalmente ci sono casi e casi, c'è la questione dell'iscrizione alle scuole dei bambini, c'è la questione del soccorso immediato quando uno è in pericolo di vita o comunque del diritto alla salute, ci sono tante cose da considerare. La ringrazio. Marco da Torino. Buonasera. Dica. Io sono impopolare, però secondo me lo Stato italiano, per garantire una produzione di auto a lungo termine in un gruppo grande come quello in cui sta entrando Fiat, dovrebbe garantire degli aiuti di Stato, non degli aiuti di Stato a fondo perduto alla Fiat, ma un prestito come è stato fatto alle banche, perché l'errore di Monte secondo me è stato il mancato finanziamento coordinato dall'Europa a tutte le case automobilistiche. Una volta che questo non c'è stato, è iniziato un derby di finanziamento tra i vari stati per mantenere la produzione. Ora Fiat va ad aiutare un concorrente in difficoltà, però posso anche capire che un manager debba badare innanzitutto all'aspetto economico. Quando la Germania ti assicura 3 miliardi, addirittura la Svezia con la piccola Saab dà finanziamenti comunque cospicui, l'Italia deve restare dietro, perché altrimenti... Non ho capito dove porta il suo ragionamento. Innanzitutto il suo intervento arriva un po' così dall'alto, perché questa sera non abbiamo parlato della vicenda Fiat. Ci sono preoccupazioni, questa è la premessa che voglio fare prima di ridare a lei la parola. Ci sono preoccupazioni per una possibile chiusura, smentite peraltro dalla Fiat, se non sbaglio, di stabilimenti in Italia nell'eventualità di un accordo con la Opel, no? No, certo, però... No, smentita la Fiat, in realtà no, c'è stato un intervento di Scajola che ha detto che le fabbriche italiane siano centrali, insomma c'è una situazione in evoluzione. Non ho capito qual è la sua posizione, Marco. La mia posizione è che ho paura che Scajola non garantisca, appunto il governo non garantisca ciò che garantiscono gli altri governi europei, e quindi per garantire il lavoro nei propri stati gli altri governi eroghino un finanziamento. In Italia si torni a uno sciopero generale della Fiat, che sarebbe la classica risposta italiana e sarebbe comunque, per carità, massimo rispetto per i lavoratori che scioperano, certo. Però comunque non ci sarebbe partita con gli altri paesi europei che erogano finanziamenti di miliardi per mantenere i posti di lavoro. So che qua si cade un po' nel protezionismo, per la carità, però d'altronde è una competizione basata innanzitutto... Sì, però la crisi, io capisco la posizione del governo, capisco naturalmente la posizione dei sindacati preoccupati per la possibile chiusura di alcuni stabilimenti in Italia, però non è che la crisi può valere solo in altri paesi e da noi invece, cioè, questi grandi accordi internazionali vengono pagati anche duramente negli Stati Uniti dai lavoratori della Chrysler, eccetera, qualcuno pagherà anche in Italia, insomma... Poi naturalmente ci sono le mobilitazioni, i sindacati fanno il loro mestiere, eccetera. Però non è che si può pensare che dappertutto queste riorganizzazioni industriali dappertutto producono certo un disoccupazione, eccetera, e invece da noi no. Insomma, questo voglio dire. 27 minuti, Nico da Udine, buonasera. La ringrazio intanto. Grazie a lei. Senta, io volevo... Promesso che sono straniero e vivo in Italia da 15 anni, cioè nel senso mi sono integrato e sto bene, mi trovo bene, lavoro e mi trovo bene sia con i miei connazionali sia con gli italiani e tutti, e vivo anche i tempi che nessuno si ricorda che per uscire dall'Italia gli stranieri dovevano presentare in questura per prendere il visto, tanto per dire una cosa così. Però volevo dire al discorso legato alla Lega che diceva, poi lei ha detto che l'hanno smentito, più confuso di tutto quanto, no? Per il posto, sì. Diciamo, sul tram, no? Posti volevo dire, sul tram, ma riservato ai milanesi. Sì, se uno di loro, o chi vota Lega, o di loro, se è a Londra o a New York, è seduto lì e va un londinese e gli dice, scusa, questo è un posto riservato ai londinesi, come si sentono loro? E non si rendono conto che stiamo vivendo in una società multiculturale come in America, come dappertutto? Sì, o se no, tanto è vero che vedi l'Obama che è uno adesso, sì. Berlusconi l'ha detto che è un abbronzato, va bene. Sì, no, ma lasciamo perdere queste cose, così. Nico, le battute di Berlusconi, lei ha ragione perché trattasi evidentemente di proposte ridicole e infatti Salvini non ha nemmeno fatto questa proposta, poi ha parlato di milanesi per bene, poi a un certo punto di donne, perché insomma i posti riservati ai milanesi non si capisce cosa significa, tra l'altro, cosa bisogna esibire, il certificato di residenza. Allora uno che non è residente a Milano ha più difficoltà a trovare un posto a sedere in metro, insomma una cosa che non ha senso. No, ma se loro si trovano, cioè, dico, va bene, fanno questa legge e viene approvata e facciamo così. Ma non c'è nessuna legge da fare. No, facciamo finta, cioè, dico, facciamo finta che sia così, ma questo la fanno anche a Londra. Dico, a chi la propone o chi vota Lega, si trova a Londra, uno gli viene a dire, guarda, lei deve alzarsi perché questo posto è degli londinesi. Come si sentono? Questo è il punto. Poi dopo io dico... Ho capito, Nicola, ho capito perfettamente. A tutti gli stranieri che ci sono, che vivono, che hanno il permesso di soggiorno, tutto, se loro non vogliono le regole, ma che vengono rispettate. Un delinquente non ha nazione, un delinquente è un delinquente, punto e basta. Inutile che andiamo a distinguere per nazione. Un delinquente mette in galera e via, finito. Ci sono le regole, vengono rispettate. Chi non le rispetta, buttalo fuori. La ringrazio. Luigi da Foggia, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Senta, dopo l'istrione è dura, comunque. Volevo portare la mia esperienza, diciamo così, di emigrante, anche se 40 anni fa. La condizione di emigrante, almeno dove sono stato io in Germania, presupponeva, diciamo così, una condizione di ospite. Ci chiamavano Gastarbeiter, praticamente lavoratori ospiti. La condizione di ospite presuppone una situazione di accoglienza al meglio. Perché io penso che se lei invita qualcuno a casa sua, penso che lo accoglierà al meglio. È che noi abbiamo... Prego? Dunque, io dico, il vero razzismo non è determinato dal fatto di avere delle regole, che in ogni democrazia ci dovrebbero essere. Il vero razzismo è accogliere tutti e poi lasciarli così, alla ghiaccio, diciamo così, dice arrangiatevi. Allora, quando si parla di razzismo, attenzione a che cos'è il razzismo. Il razzismo può essere anche, noi accogliamo tutti, ma poi arrangiatevi voi. I nostri emigranti, quando sono andati all'estero, sono andati nelle miniere di Marcinelle. Io sono andato, ho lavorato. Insomma, non è che sia andato via così, senza, diciamo così, una meta. C'è tutta la solidarietà. Allora un governo che si rispetti, e questo non lo dico tanto al governo di destra, ma al governo di sinistra, che ha avuto la possibilità, quando è stato al governo, poteva programmare e stanziare, che poi la programmazione si fa con l'economia, con i soldi, stanziare dei programmi atti a una accoglienza migliore, a uno stato sociale migliore. Che se lei mi consente, io non voglio fare quelle questioni di destra o di sinistra, io dico solo questo, che non mi aspetto, per l'amor di Dio, non mi aspetto che me lo faccia il governo di destra, io mi aspetto che chi grida alle leggi razziali, nel momento in cui ha la possibilità di avere lo scettro del comando, mi fa delle leggi che non siano razziste, e non essere razzisti significa stanziare dei soldi, significa mettere al bilancio. D'accordo, la ringrazio Luigi. Ugo da Brescia, buonasera. Dica. Ho l'impressione che le persone che parlano di razzismo non si siano mai avvicinate a un extracomunitario. Lo dico perché nel mio lavoro io faccio il farmacista in un piccolo paese, 3.700 abitanti, 700 extracomunitari di 27 etnie diverse. C'è un unico tratto che li accomuna tutti, lo stupore nel vedere come in Italia le regole non vengano rispettate. Ci sono molti di loro che proporrebbero regole molto più draconiane delle nostre, la pena di morte sarebbe invocata praticamente da tutti. Però io queste persone le apprezzo perché ci vivo tutti i giorni insieme, sono persone valide, persone paragonabili a noi sotto tutti gli aspetti. Ci sono certo gli spacciatori magrebini, ma quelli sono addirittura allontanati dalla loro stessa comunità, perché chi viene in Italia viene per lavorare, per darsi da fare, poi si trova davanti a uno Stato che è più inefficiente perfino dei loro Stati. Ed è questo mancato rispetto delle regole che sconvolge per primi gli extracomunitari e permette agli extracomunitari che delinquono di fare in modo che tutti pensino male degli extracomunitari, che ne abbiano paura. Sì, in naturalmente realtà... poi bisogna vedere, Ugo, se introdurre sempre nuove regole serve davvero a qualcosa. Per esempio, introdurre il reato di clandestinità, perché poi di questo si parla. Secondo lei serve o non serve? Rispettare solo quelle sarebbe più che sufficiente. La ringrazio. Rispettare quelle che ci sono già, dice lei. Sì, assolutamente. La ringrazio. Andiamo a Lecco, provincia di Lecco. Marco, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani, a lei e radioascoltatori. Dica. Senta, io volevo così fare un commento sulle dichiarazioni di Matteo Salvini. Premetto che io sono milanese da 5 generazioni e quindi tu hai un parente che ha una via nella città. Ecco, sì. Pertanto posso dire di essere un milanese doc. Le trovo, beh, sicuramente una provocazione, perché se uno dice che bisogna riservare sui mezzi pubblici dei posti ai milanesi, mi viene da ridere, anche perché è difficile, dovrebbe, è praticamente impossibile controllare se uno è milanese vero o non è milanese vero, in quanto la città ormai è una metropoli internazionale con tantissimi turisti, eccetera. Trovo viceversa invece intelligente un discorso di videosorveglianza, soprattutto nella metropolitana e anche nei mezzi pubblici, che oggi con le tecnologie che ci sono si possono benissimo fare, anche perché effettivamente per chi prende i mezzi pubblici quotidianamente o molto spesso si accorge di persona che insomma ci sono delle situazioni spiacevoli. Sì, ho capito, però queste situazioni spiacevoli riguardano italiani, stranieri, indistintamente, guarda, diciamo, possono riguardare chiunque, ed è un problema di ordine, è un problema di ordine pubblico. Cosa c'entrano i posti riservati? Mi scusi. Ecco, no, quello, infatti quello non lo trovo assolutamente serio, una proposta allora. Di questo genere. Mentre trovo serio un discorso di videosorveglianza sui mezzi pubblici, dove praticamente chi delinque indipendentemente o chi tenta di delinquere indipendentemente dalla sua etnia o provenienza viene in ogni caso monitorato o perlomeno... Sì, vabbè, ma la questione delle telecamere sui mezzi pubblici se ne può discutere, anche se è un investimento molto grosso, poi... C'è la possibilità che vengano danneggiate continuamente. Sì, beh, ecco, vabbè, essendo delle telecamere, chi tenta di danneggiarlo verrebbe automaticamente individuato, no? Sì. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa, invece, volevo riferirmi invece al provvedimento di Maroni e sì. anche alle dichiarazioni da parte dei vari enti internazionali tipo ONU, sì. eccetera. Quello invece lo trovo corretto e non riesco a capire tutte queste critiche nei confronti dell'Italia, quando sappiamo benissimo che Malta nelle sue acque territoriali ha respinto dei barconi di migranti, eppure Malta fa parte europea, no? E si picca di dare, diciamo, dei razzisti. No, ha una serie di accordi, ma non fa parte dell'Unione Europea. Comunque. Sì, comunque vabbè, in ogni caso sappiamo benissimo che Zapatero, che è un premier di ispirazione socialista, di sinistra, sappiamo benissimo che il reato di immigrazione clandestina in Spagna è un reato, no? Sappiamo benissimo che la Grecia, che fa parte integrale della Comunità Europea, controlla molto molto saldamente le frontiere, infatti molto spesso non si riusciva a capire come mai gli albanesi dovessero venire in Italia quando attraversando con tutti i rischi. Ho capito, lei dice diversi paesi in Europa sono più duri rispetto all'Italia, dunque noi abbiamo una legislazione anche più morbida rispetto agli altri. La ringrazio, è con noi, lo ringrazio, Domenico Delle Foglie, che è uno dei promotori, anzi il principale promotore del Family Day, ricordate, ed è anche editorialista di Avvenire. Buonasera. Buonasera, buonasera. Cruciani, eccoci qui. Buonasera. Allora, Delle Foglie, le faccio ascoltare che cosa? Una cosa che ha detto questa mattina Brunetta a Repubblica TV. Cosa ha detto Brunetta? Sostanzialmente, io riassumo perché poi il significato è questo ed è anche, secondo me, abbastanza grave, tra virgolette, comunque dovrebbe in qualche modo suscitare le reazioni di una persona come lei. Perché cosa ha detto Brunetta? Ha detto, beh, insomma, la Chiesa non si può permettere, il Vaticano non si può permettere di fare delle critiche a Berlusconi, non può invocare la sobrietà per Berlusconi, cosa che ha fatto il quotidiano su cui lei scrive, cioè Avvenire. Perché? Perché c'è tutta la questione dei preti pedofili. È incredibile, ma Brunetta ha pronunciato queste parole, sentite. È anche vero che persino il quotidiano della CEI, l'Avvenire, ha invitato il Presidente del Consiglio ad un atteggiamento un po' più sobrio, diciamo, dal punto di vista dei costumi. Posso dire una battuta? Per questo. Da quale pulpito? Addirittura. Vabbè, i Vescovi non è che si possano criticare per questo motivo, no? Il giornale dei Vescovi. Non vuole aggiungere altro. Da quale pulpito? No, pensiamo a quello che è successo in America, sai. E a come il quotidiano dei Vescovi ha trattato quello che è successo in America. Ma lei allude alle vicende di pedofilia che hanno visto coinvolto tanta parte di clero americano. Sì. Certo. Mi correggo, Brunetta ha detto: pensiamo a come Avvenire ha trattato la questione dei preti pedofili. Non ha detto la Chiesa non può. Avvenire, allora, guardi, io sono attualmente faccio editorialista, ma in quel momento esattamente ero il vice direttore di Avvenire. Sì. Noi abbiamo mandato di corsa un inviato in America, posso dire anche il nome perché è uno straordinario giornalista che si chiama Alessandro Zaccuri, che è andato lì a raccontare tutto quello che era possibile raccontare. Quindi, e non solo, ma poi soprattutto sappiamo benissimo quello che ha fatto il Papa. Il problema è l'ignoranza di Brunetta. A me dispiace molto perché Brunetta poi è una persona talmente simpatica che alle volte davvero gli si può consentire tutto. In questo caso no, però mi dispiace perché il Papa è stato di una durezza nei confronti del clero americano e in particolare della diocesi di Boston, il quale cardinale Loa sapete bene che adesso è a Roma perché è stato trasferito su due piedi, perché non aveva agito in maniera immediata e anche con la necessaria severità. Non solo, ma poi c'è una disposizione che ha fatto storcere il naso a tutta la comunità omosessuale al mondiale, perché il Papa ha detto: guardate, siccome c'è un grave problema che si annida nei nostri seminari, per cui dobbiamo assolutamente riportare, come dire, dentro i seminari la chiarezza anche della vocazione, anche in termini della purezza e della castità, diciamoci le cose come sono. Bene, il Papa ha fatto ha emanato una disciplina per tutti i seminari internazionali, per cui sapete bene che poi una polemica terribile. Per cui il Papa ha detto: guardate, non è più possibile che possano essere ammesse nel seminario le persone omosessuali. Sì, ma ricordo benissimo. Qual è il punto interrogativo? Perché adesso so bene già l'obiezione, posso farla? No, ma come cosa no? C'entra con la pedofilia? C'entra. No, ma non è l'obiezione, perché non è affatto questa delle foglie. Lei si sta addentrando in una discussione, per carità, sulle quelle che sono state le posizioni di Avvenire del Papa in quei frangetti. Ma secondo me. È importante sottolineare. Naturalmente, non c'è dubbio, però qui il punto di vista, guardi, io sono d'accordo con lei, cioè il punto di vista il punto di vista è diverso, cioè su Brunetta sono d'accordo con lei, dicevo, cioè che cosa c'entra mettere in campo il modo in cui Avvenire riportò quelle vicende con una critica che è stata fatta a Berlusconi sul comportamento pubblico sulle candidature. Guardi, lei ha colto perfettamente nel segno, mi pare che si tratti di due livelli totalmente diversi, è una maniera così per buttare il tavolo all'aria e non discutere del problema in sé, a parte il fatto, piccolissimo particolare, che Avvenire ha parlato della necessità della sobrietà del comportamento di un premier, che può valere per Sarkozy come può valere per Zapatero. A me pare davvero una reazione esorbitante rispetto alla sostanza delle cose. Nello specifico Avvenire risponderà, che lei sappia, domani a questa cosa di Brunetta. Credo di no, perché poi alla fine oppure non lo so, perché io faccio editorialista adesso, quindi non sono attento alle cose. Quell'unica cosa che so è che stamattina certamente il direttore era a conoscenza della cosa. So che credo se ne sia parlato anche nella riunione, ma avranno deciso come sempre magari poche parole significative, perché davvero quando si esagera, mi pare in questo caso è davvero una reazione sproporzionata, assolutamente sproporzionata a un fatto invece vero, un fatto direi. E poi mi consento anche di fare un'osservazione a Brunetta in linea generale, in questo caso Avvenire è il quotidiano dei cattolici italiani. Al massimo se la deve prendere con la Chiesa italiana, se proprio vuole arrabbiarsi, perché la responsabilità, tant'è vero che il Vaticano in particolare su questa vicenda si è tenuto in qualche maniera Il Vaticano con le posizioni dell'Avvenire in linea di principio non c'entra nulla, il Vaticano in quanto tale. Non solo, ma il Vaticano sostanzialmente credo ci siano state dei rapporti come consueti, come capita sempre con Gianni Letta, si saranno chiariti, avranno detto qualcosa. Dal punto di vista dei vescovi italiani c'è un'adesione totale alla linea, a quella linea di Avvenire, nel senso della sobrietà. Ci mancherebbe altro. Bagnasco. Può anche capitare che, guardi, noi siamo liberi, è incredibile, i giornalisti di Avvenire, che è un giornale fatto tutto da laici, ma è compreso che per 20 anni ho lavorato nella stampa laica e poi ho lavorato in quella cattolica, e noi siamo tutti laici, quindi pensiamo con la nostra testa e arriviamo a quelle determinazioni con la nostra testa. Lo dice a me che ho fatto una battaglia nel giorno giorni scorsi sul fatto di essere bollati come dipendenti da Berlusconi, cosa che qualcuno ha fatto. Esattamente, bravissimo, è la stessa cosa. Perché io direi paradossalmente. Voi spesso Avvenire viene bollati i dipendenti, diciamo, di Avvenire, sono spesso bollati come i portavoce della Santa Sede, insomma, un'altra stortura immane. Ma per carità, noi ragioniamo con la nostra testa, anzi, questa è la migliore, me lo consente, la migliore lezione che arriva dal Concilio, cioè noi siamo laici, cattolici, pensiamo con la nostra testa, facciamo cose anche, se volete, singolari, perché vedi il Family Day che adesso viene usato anche in tutta questa vicenda in maniera polemica, io sono rimasto sbalordito, no? Sì. La Concita De Gregorio che arriva a dire alla 7 che il Family Day è organizzato da Berlusconi, io sono saltato sulla sedia, perché voglio dire, l'abbiamo organizzato noi, 40 associazioni, movimenti, eccetera. I politici erano in piazza, sotto, non nessun politico è salito sul palco. Berlusconi è venuto, io l'ho raccontato stamattina a Repubblica, sta scritto stamattina su Repubblica, ho raccontato com'è andata, cioè mi sono avvicinato, l'ho pregato tutta la giornata, telefonate di qua, di là, buon aiuti, va bene, perché voleva venire, io dicevo, ma insomma cerchiamo di non, la piazza è quella che è, una piazza di cattolici che dice alcune cose a favore della famiglia, basta. Sì. A quel punto lui viene, io lo avvicino, gli dico, Presidente, la prego, eviti, ascolti un momentino prima la Roccella, Pezzotta, magari poi dirà qualcosa a commento. Sa cosa mi ha risposto? Perché poi è Berlusconi, Come ha risposto? E io cosa sono venuto a fare? Io sono venuto qui per parlare. È straordinario. Chiaro, questo è Berlusconi. Delle foglie, io la ringrazio, dobbiamo mandare la pubblicità e grazie di averci anche regalato questo piccolo ricordo. Complimenti per i suoi ascoltatori. Grazie. Buona serata. 20 e 29, non so se era ironico, forse sì, delle foglie. No, 8, no, scherzo, sto scherzando. No, non era ironico perché ne ho sentiti, sento gente informatissima. No, questa sera ogni tanto abbiamo avuto qualche ascoltatore, per carità, sempre rispettabilissimo, naturalmente, come tutti. Però adesso faccio un complimento a lei è abilissimo e anche è particolarmente frizzante, quindi complimenti. Grazie. Aggiungo questo, dico davvero, poi ascolto ascoltatori arrabbiati, ascoltatori anche informatissimi, per no, assolutamente, assolutamente non era ironico, no, assolutamente no, per carità. Grazie, non mi permetterei. Buona serata. Grazie. 20 e 29 800 24 00 24 insomma, vedremo domani la reazione, sentiremo domani, leggeremo la reazione di Avvenire, se ci sarà. Questa cosa molto pesante, secondo me, detta da Brunetta. Eccoci qui, 20 e 35, una piccola precisazione su una cosa che avevamo detto prima, perché Malta è un paese così vicino ma nello stesso tempo così lontano, che non ricordavo che da tempo si è avviato un processo, addirittura il processo di adesione iniziato nel 1990 e poi ufficialmente, credo, dal 2004 fa parte dell'Unione Europea e poi addirittura il 1 gennaio 2008 l'euro, che ha sostituito definitivamente la lira maltese, dunque uno Stato che addirittura ha aderito agli accordi di Schengen, fa parte a pieno titolo dell'Unione Europea. Sentiamo i titoli del TG2 e poi velocemente tutti gli ascoltatori che ci sono in onda. La Banca Centrale Europea riduce di nuovo i tassi di interesse all'1%, livello più basso di sempre. Il presidente Trichet non esclude altri tagli, ora si attendono i ribassi del costo del denaro per famiglie e imprese. Maroni, saranno sempre riaccompagnati verso la Libia, paese di provenienza, i migranti e soccorsi in acque internazionali. Schifani, passo importante ma è scontro politico. Inchiesta sulla morte di Carlo Marcelletti, decisa all'autopsia, la procura vuole ricostruire le ultime ore di vita del cardiochirurgo, saranno sentiti medici, amici, familiari. Va bene, alle 20.36, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Allora, velocemente, voglio sentire tutti gli ascoltatori. Luigi da Lecce. Sì, buonasera. Dica. Buonasera Gianni, ascolti, io sto ascoltando in questi due giorni questo dibattito sul fatto di Franceschini che ha esagerato, secondo lei, pure io penso che lei abbia ragione, ha esagerato un po' a dire in Italia se vogliono reintrodurre le leggi razziali, sì. Però ho paura che lei non lo fa apposta, chiaramente, è come se stessi un po' sottovalutando il nocciolo del problema. E cioè, il nocciolo del problema, se lo vogliamo sintetizzare con un esempio, è questo: nel momento in cui si vuole creare, diciamo, da parte del medico questo discorso, lei è un pubblico ufficiale, per cui considerando il reato di immigrazione clandestina un reato penale, lei essendo pubblico ufficiale è obbligato, non è vero che è facoltà del medico, il medico è obbligato, una volta che il reato diventa penale, è obbligato a fare la denuncia. Allora, questo comportamento, anche se ancora non è legge o è legge o non è legge, già il dibattito di questo problema comporta questo risultato, che molti immigrati, sicuramente quelli irregolari, sicuramente non porteranno i loro bimbi a fare le cure, che sono delle influenze, delle cose più immediate. Questo comporterà una sofferenza, e non lo dico per fare terrorismo, ma la realtà. No, ma Luigi, sono considerazioni. Ho capito che vuole dire lei, è chiarissimo, sono cose di cui si è discusso molto nei mesi passati, bisogna poi vedere concretamente se per paura di essere denunciati da parte di un medico, lei dice che ci sia o meno questo obbligo, resta il reato di clandestinità, dunque in teoria anche, lo disse un senatore leghista, l'obbligo di un medico di denunciare, dunque la cosa potrebbe provocare una fuga degli immigrati, diciamo, irregolari dai pronto soccorso, dagli ospedali, anche in casi gravi di epidemie, eccetera, eccetera. Io non credo che sia questo lo scenario, però capisco la sua posizione. Claudio D'Ancona, più veloce, Claudio, dica. Pronto? Claudio, dica. Sì, buonasera, volevo solamente dire che io parlo da un osservatorio privilegiato, che è proprio quello della sanità. Sì. E concordo pienamente con lui. Fra l'altro, quello che lei sta dicendo appare inesatto nei numeri, in quanto proprio questo clamore mediatico, fra l'altro sì, filtrato da una comunità o dalle comunità straniere che magari possono mal interpretare, ha portato già a un calo delle presenze, io parlo da sanitario, sì, delle presenze di queste persone, e sono dati che il Ministero della Salute, che peraltro non esiste fra le altre cose, dovrebbe portare all'attenzione. Cioè, secondo lei c'è già stato per questo dibattito avviato un calo di presenze di extracomunitari negli ambulatori, nei presidi sanitari, eccetera, eccetera. Ma questi sono dati. Però non è che ci sono notizie, mi scusi, di diffusione di malattie in Italia, eccetera, eccetera. Ad esempio la tubercolosi è una malattia che poi si ripercuote nell'arco di alcuni anni, per cui noi non ne pagheremo direttamente i danni. In questo momento il governo e la maggioranza stanno incassando, no, i soldoni di questa propaganda. Poi dopo si pagherà, ci sono malattie che rimangono. Cioè, secondo lei questi provvedimenti del governo, mi scusi un attimo, secondo lei questi provvedimenti del governo potrebbero portare, per esempio, tra qualche anno ad un aumento della diffusione della tubercolosi in Italia? Già di fatto sta aumentando, e questi sono dati dell'OMS, in tutti i paesi industrializzati, a causa dell'immigrazione. Immaginiamo a causa dell'immigrazione, sfido chiunque a dimostrare il contrario, immaginiamo a causa dell'immigrazione clandestina che per timore non si rivolge alle strutture sanitarie. Ho capito perfettamente, la ringrazio, devo dare la parola ad altri perché ci abbiamo verso la conclusione. Antonio da Milano, veloci, Antonio, dica. Dottor Cruciani, buonasera a tutti gli ascoltatori. E volevo intervenire sull'uscita del, non so se ero parlamentare, Matteo Salvini della Lega, sì, riguardo i posti riservati. Deputato, sì. Allora, intanto ritengo impropriato il termine riservati ai milanesi. Io abito, lavoro a Milano da tanti anni, sono calabrese, e ho fatto in tempo nel 76, quando sono arrivato, a vivere gli ultimi rimasugli, gli ultimi sprazzi del Dagli al Terrone, status del quale io attualmente me ne vanto e ne vado fiero, però credo che queste uscite, onestamente, non favoriscono l'integrazione. Vabbè, lei è milanese però ormai, no? Come? Lei è milanese ormai, per cui milanese d'adozione, certamente. Per cui lei è sicuro, ha la carta d'identità. Non sto a me stabilire se è stato quello, la pari, eccetera, eccetera. Però è stato Antonio, adesso non ci addentriamo sullo scambio, eccetera. Lei ha la carta d'identità, ho scritto residente a Milano? Certamente. E allora va tranquillo, anche se mi sento calabrese, per cui questo non lo può togliere nessuno. Sto scherzando, Antonio, la sto buttando sullo scherzo perché mi sembra che questa storia qua bisogna prenderla anche in questo modo. Io credo soltanto che uscite come queste, che ritengo un po' becere e grette, non favoriscono certo il processo di integrazione, dove integrazione vuol dire unire le diversità e arricchirsi con le diversità. I medici spia, i presidi spia, cosa sarà la prossima? Riserveranno l'acqua potabile, riserveranno l'aria. Io onestamente, poi l'ultima cosa e finisco, da parte sua, che ritengo sia ormai calato nel ruolo di opinion leader, su queste situazioni culturali gradirei un'incisività maggiore, perché queste cose contano molto secondo me. Ho capito, ma l'incisività non vuol dire essere d'accordo con lei. Io infatti sulla stupidaggine di Salvini sono d'accordo con lei, sui medici spia e sui come si chiamano gli altri, i presidi spia per esempio non mi indigno particolarmente. La ringrazio. Afrim, provincia di Padova, veloce Afrim, dica. Sì, salve, buonasera dottor Cruciani e radioascoltatori. Niente, io volevo intervenire anche io su questa questione per i migrati, i clandestini, eccetera, eccetera, che si dicono durante adesso, davanti, quando sono le elezioni europee, perché secondo me tutti questi leader leghisti che vogliono diventare qualcosa sempre evocano i clandestini, eccetera. Ho capito, cioè secondo lei anche questa uscita di Salvini va scritta sotto la voce slogan da campagna elettorale. Esatto, perché va bene, la ringrazio, devo concludere per questa sera. Abbiamo Matteo da Bergamo, Cristian dalla provincia di Salerno, Filippo da Napoli, ma li rimandiamo se vogliono a domani sera 18:30. Salvini ci ha chiamato, ci ha mandato dei messaggi, eccetera, eccetera, ma questa sera non troviamo spazio, se vuole domani sera, per spiegarci un po' meglio questa storia del metro ai milanesi, cioè posti riservati ai milanesi. Poi ha detto anche alle donne, poi si è corretto ancora, ha detto ai milanesi per bene. Va bene, un po' di confusione, chiariremo forse domani. Ciao.